Oh, Drago, seconda settimana di Chiedo Asilo ABC, ormai il meccanismo l'hanno capito tutti. Ma, suggeriscono già delle parole su internet. Guarda, sì, è vero, i nostri ascoltatori chiedono parole che devono essere spiegate. Come F di farmacia. Vabbè, la farmacia. O F di flatulenze. Anche. Beh, ma quello non si può, dai. Poi S di sfigmomanometro. O ma anche dai. Di sciatteria. P di prosopopea. E anche di prostata, voglio sì, dire. Vabbè. Insomma, i nostri ascoltatori non hanno capito che anche cataplasma. R di rettoscopia. Vabbè, lasciamo perdere i consigli degli ascoltatori sì, sì. E facciamo andare la ruotona della letterona. Come la giri tu? Oggi la giro. Ma io non l'ho mai visto. L'altra volta la girata. Appunto, tu aspetta. Acacia. A di acacia, molto bello. Il miele di acacia. Allora. Sempre alberi con la A. Sì, è vero. Albero, ce ne sono un sacco. Abete, ce ne sono altri. Acacia, allora bambini, acacia, sapete cos'è l'acacia? Il acacia. Miele d'acacia. Cosa? Mi faccio il miele? No, no, no, cos'è? Acacia, acacia. Cioè, mio papà va a caccia, no? Mio padre sì, va a caccia. Ma come va? Una volta a l'anno va a caccia? Ma non è un comunista di quelli ecologisti? Sì, ma ha ereditato una tessera dell'arcicaccia, no? Arcicaccia! Sì. Sono scacciatori, ma sono rossi, no? Arcicacciatori. E una volta all'anno, per non perdere la tessera, deve andare a fare la battuta di caccia. Massimo, doppietta, questa... bla bla bla. No, vabbè, ma non è acacia, con una C. È un albero, va bene. C, comunque, direi che non va bene come parola, no, perché no. Io direi che con la A, la parola del momento è agenda. Agenda. E dovremmo trattare A come agenda. Cosa dite, mi ragazzi? Sembra ottimo. Va bene, dai. Agenda. L'agenda, dai. L'agenda, dai, l'agenda, ne parlano tutti. L'agenda Monti, no? C'è l'agenda, c'è l'agenda. L'agenda è la gente, c'è il popolo. Agenda, lunedì devo fare questo. Questo, martedì o quest'altro appuntamento, esatto. Mercoledì. Cioè, tutti i giorni uguale, ti ricordi quando all'inizio dell'anno le banche regalavano l'agenda? Ecco. Anzi, alla fine dell'anno regalavano l'agenda dell'anno nuovo. E cioè, quest'anno l'agenda è stata dettata da un banchiero, amico sì, dei banchieri. Vabbè, insomma, l'hanno già detto tutti, l'agenda non si regala, ma si detta. Cosa si, vuol dire? Si detta. Vabbè. Prima si pensa, si concepisce, sì. Poi si detta e si scrive. Comunque, ormai hanno tutti l'agenda: c'è l'agenda Monti, l'agenda Napolitano, l'agenda Bersani. L'unico che non ha l'agenda è Berlusconi, però lui ha un'agendina che gli invidiamo tutti, perché dalla Carminati in poi ci sono tutte. La Carminati, ma la Carminati era all'epoca di Happy Days. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle humps, ready to race to you. These days are gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. It feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long. Hey, ma cosa hey? Hey, sono Fonzie, Albe. Ma no, tu sei Ralph, io sono Fonzie. Non vedi i capelli? These days are all. Eh sì, una volta l'agenda era l'insieme dei giorni che si snodavano Monday, nel giorno, Tuesday, no? 1, 2, 3 gennaio, eccetera. Happy days. Ed erano giorni felici, sì. Adesso invece è un insieme, un rincorrersi di giorni vabbè, tristi. Però qua siamo all'asilo tra i bambini, Voi siete allegri, vero? Sì, allegri. Ecco, però adesso vi diamo dei compiti. Infatti, sì. Come i compiti? Infatti cosa? Sì, infatti. Perché è il nuovo significato di agenda, no? Gli adulti hanno l'agenda, i bambini hanno il diario dove si scrivono i compiti. Allora, prendete nota che adesso vi diamo i conti. Ma sai che prima lo volevo dire? Ma cosa vuoi dire? Scrivi adesso. Homework anymore. Can't do my homework. Oh, baby, I say you got me so blind. I'm walking round in circles, I could lose my mind. The way that you got me holding your door, I can't do my homework anymore. Wait, honey, I said. questa musica, bellissima! Questo qui è blues, homework, è blues dei compiti, oh? Pure, questo pure a Napoli c'è un pezzo così di Pino Daniele. Ma che Napoli, ma va, questo qui è Robin Ford, questo qui, quando io non ho voglia di fare i compiti, allora metto su homework, no? È blues dei compiti. Vieni con me! You're as sweet as you can be. Everything you do, keep on sending me. Just the kiss of your lips or the touch of your hand. Everything you do is really grand. Oh, babe, oh, now what can I do? I'm walking around in circles in love with you. Well, don't you got me holding your door. I can't do my homework. Va bene, allora il compito, bisogna fare il compito. L'avete avete fatto i compiti, non avete fatto niente. Vabbè. Insomma, stare attenti e capire questa regola dell'agenda. L'agenda come gerundio, cioè come cose da fare, cose che andranno fatte. Esatto. Agenda. Dal latino, che tu lo sai bene, no, Alberto? Latino, agendum, agenda. Neutro plurale, verbo agire, sostantivo agenda. Quindi oggi impariamo questa regola generale, che il suffisso andoendo indica una cosa che avverrà, oppure una cosa da fare. Faccio un esempio, ad esempio la mutanda. La mutanda deriva da mutare, cambiare, cioè la cosa che va cambiata. Le mutande vanno cambiate, però cambiano, è strano perché mutanda è già da cambiare appena te la metti. Appena la tiri fuori dal cassetto, sì, è così. Una giornata, mezza giornata. Però se la regola fosse sempre valida, allora, se mutanda, eccetera, quindi anche Orlando, il nome, vuol dire che è una persona che deve essere orlata, non riesco a capire. Sì, direi di sì. Vabbè, sì. Allora, bambino Alberto, hai capito la regola, quindi? Ma, cioè, Orlando deve essere orlato. Sì, tipo uno, un paio di pantaloni. Ma cosa vuol dire? No. Allora, no. Allora Fernando... Fernando deve essere Fernato? Fernato. E Ferdinando? Deve essere Ferdinato. Vedi, la regola è facilissima. Sì, che poi non ho mai capito Ferdinando che nome è. Esiste Fernando, perché devi chiamare il bambino Ferdinando, che è più lungo. Nando, allora. Ma sì, vabbè, ma stiamo sul corto, Massimiliano, Massimo, no? Non sono mica dei cani, Max, devi chiamarli col bisillabo. C'è un mio amico dell'asilo, no? Che si chiama Pier Ferdinando, Cioè che è lunghissimo. Poi Pier Ferdinando è un nome anche noto, no? Direi. Noto, vabbè, sì, comunque, sì. Comunque avete capito questa regola del gerundio sostantivato? Anche tu, Ioris, l'hai capito? Sì, sì, ho capito bene. Sì. Vabbè, ando, anda, capito? Sì, allora, cioè anda, andum, andus. Sì. Dai, però adesso un esempio vostro, vi abbiamo aiutato. Allora. Cioè, aspetta, adesso mi viene in mente, c'è una roba che c'è una canzone, c'è una vecchia canzone, no? Sì, sì, sì, di Pino Daniele sempre. Ma che Pino Daniele sempre, allora? Tu sei monomaniaco, allora. C'è una canzone, no? Che canta sempre mia mamma, no? Quando si fa la doccia, no? Di solito quando torna a casa che va a fare la lezione di tennis, poi di jiu-jitsu e poi di chitarra, no? Poi torna a casa e fa la doccia e canta, no? Se Pier Ferdinando tu ti chiamassi Ferdinando, ti voterei. Se Ruggero Orlando ti presentassi re di vivo, ti sceglierei. Se poi Marlon Brando non fossi morto adesso, forse ti chiamerei. Ma scusa, ma allora domanda è ciò che devi domandare. Eh sì, domanda. Tipo una tigre è domanda. Sì.